24, i gialli della storia. Ha fatto un buon lavoro. Gli era stata affidata una piccola Russia e lui l'ha fatta crescere fino a farla diventare grande. È stato un ottimo padre. Ordine. Ha riportato l'ordine in un paese che era in preda all'anarchia profonda, dove non esistevano né regole né leggi. Il peggiore è stato Yeltsin, che aveva un sacco di difetti e non era degno di governare. Su un gradino un po' più in alto metterei Gorbaciov, anche se in fondo andrebbe bocciato anche lui perché si era dimostrato un debole. E poi, diciamolo, era succube della moglie e questo non va bene. Putin invece lo promuovo a pieni voti perché ha restituito dignità e autorevolezza al nostro paese. Bravo, veramente. Sì, continuiamo così. Due mandati presidenziali, uno da primo ministro, quando alla guida del paese è stato Dmitry Medvedev, il suo delfino. Dal maggio del 2012 Putin è di nuovo presidente della Russia. E lui, a detta di molti, ad aver restituito alla Russia dignità e autorevolezza. E lui ad averla riportata ai vertici della politica mondiale, fino alla recente centralità nel sanguinoso scacchiere medio orientale. Quello di oggi a Mix 24 è un affresco della Russia di Vladimir Putin. È la storia dell'ultimo zar dell'Unione Sovietica. In qualità di presidente della Federazione Russa, giuro sulla Costituzione di rispettare e di salvaguardare i diritti e la libertà dell'uomo e del cittadino. Giuro di rispettare e di difendere la Costituzione della Federazione Russa. Giuro di difendere la sovranità, l'indipendenza, la sicurezza e l'integrità dello Stato. Giuro di servire fedelmente il popolo. La rivista Time l'ha incoronato uomo dell'anno solo nel 2007. Ma in realtà è da tempo che il presidente russo Vladimir Vladimirovich Putin si è guadagnato un posto in prima fila fra i protagonisti della scena politica mondiale. Era il 7 maggio del 2000, quando varcava per la prima volta la soglia del Cremlino. Abbiamo innanzitutto restaurato l'integrità territoriale del nostro paese e allo stesso tempo abbiamo fatto crescere i redditi della popolazione. Questa è la cosa più importante. Abbiamo poi rifondato la nostra economia su basi completamente nuove e sono soddisfatto. La Russia ereditata da Putin nel 2000 era in effetti un paese in piena disintegrazione sull'orlo del collasso. Collasso militare, economico, politico e sociale. Oggi invece è una potenza di rango, in grado nuovamente di competere con l'Europa e con gli Stati Uniti nel grande gioco della politica internazionale. Negli anni 90 la Russia è stata messa ai margini del salotto buono in cui si decidono le sorti del mondo. Non è stata fatta fuori, questo no, ma era quasi ininfluente. E dunque aveva perso il suo ruolo storico, conquistato ai tempi dello zar, e mantenuto, anzi rafforzato, nell'epoca dell'Unione Sovietica. Putin è riuscito, con grande tenacia e lungimiranza, a reinserire la Russia nel gioco della geopolitica. Anzi, l'ha fatta tornare ad essere un giocatore di primo piano, non più succube dell'Occidente, ma con una propria politica e una propria strategia. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 91, il mondo da bipolare era diventato unipolare, con tutti gli squilibri che ne sono derivati. Adesso la Russia sta riempiendo quel vuoto. Ma non abbiamo ambizioni imperiali, state pure tranquilli. Siamo solo in grado di assumerci di nuovo le nostre responsabilità. E agli Stati Uniti e all'Europa, che sono i nostri partner, diciamo, ci siamo pure noi. La Russia c'è. Le strade, la folla delle principali città della Russia sono ormai simili a quelle delle grandi capitali europee. È facile incontrare gruppi di giovani che ormai da anni girano per la Russia e inneggiano il loro leader. Sono i nasci, per loro Putin è un vero punto di riferimento. Nasci vuol dire noi, i nostri. ma non l'abbiamo scelto per contrapporci a voi, agli altri, come pretende qualche detrattore. Siamo solo un movimento patriottico che si batte per la Russia, perché la Russia torni ad essere una superpotenza, come merita. Ci accusano, lo so, di essere nazionalisti e danno a questa parola un'accezione negativa che, francamente, non condivido. Noi non siamo contro le altre nazioni, siamo solo per la Russia e non vedo che cosa ci sia di male. C'è gente che si diverte a screditarci, dicendo che siamo anti-americani e anti-europei. Ma è ridicolo, perché al giorno d'oggi non ha senso essere anti qualcuno. Noi semplicemente non vogliamo essere schiavi o succubi degli altri, Europa o Stati Uniti che siano. E a chi mi chiede ti senti russo o europeo rispondo russo, certo, e fiero di esserlo. Ci criticano anche per la nostra eccezionale capacità di mobilitazione. E dicono che siamo come il Komsomol, la gioventù comunista ai tempi dell'Unione Sovietica. Beh, francamente, è un'accusa che ci lusinga. Erano dei patrioti anche loro. E noi, come loro, lavoriamo all'educazione delle giovani leve. Уважаемые друзья, прежде всего хочу выразить слова признательности всем. Nasci è stato il braccio armato di Putin, una straordinaria macchina da guerra che ne ha moltiplicato i consensi e ne ha veicolato un'immagine ogni giorno più carismatica, in grado di coniugare i miti del passato e le speranze per il futuro. Putin ci piace perché condivide le nostre idee, ha saputo trasformarle in decisioni politiche, ma non è vero che i giovani di Nasci siano malati di culto della personalità. La verità è che Putin in questi anni ha fatto diventare la Russia uno dei più potenti paesi del mondo. Nasci, infine, è stato l'antidoto escogitato da Putin contro le ripetute ingerenze occidentali nel tradizionale spazio di influenza della Russia. Una valanga di giovani è stata cioè spinta in piazza per creare una forza d'urto che scongiurasse il rischio delle rivoluzioni a colori scoppiate in molte delle repubbliche ex sovietiche. L'arancione in Ucraina, le rose in Georgia, i tulipani in Kirghizistan. L'antidoto per ora ha funzionato. Chi pensa che la Russia possa rinunciare alle sue tradizionali zone di influenza si sbaglia di grosso. La Russia può esistere solo come grande potenza. Capisco i sentimenti dei lettoni, degli ucraini o dei caucasici, ma non dimentichiamoci che quelle terre sono appartenute per secoli alla Russia e che ancora oggi ci vivono migliaia, anzi milioni di russi. Yushchenko! Yushchenko! Uno dei problemi della nuova Russia è il rapporto con le repubbliche che una volta erano sotto il diretto controllo dell'Unione Sovietica. Oggi chiedono l'indipendenza totale da Mosca che non riescono a ottenere. La richiesta di autonomia politica va di pari passo con quella economica. Nella Russia di Putin, infatti, si sono sviluppate grandiose realtà industriali. La più importante è Gazprom, un colosso dell'estrazione e della distribuzione del gas naturale che è esportato in più di 30 paesi. Intorno a questa gigantesca compagnia è nata una città, Novi Urengoi, in Siberia, una città con più di 100.000 abitanti, dove ogni servizio, dalle scuole al teatro, dai ristoranti al cinema, è garantito da Gazprom. Ma Novi Urengoi è anche una città chiusa, inaccessibile. Per entrare bisogna superare posti di blocco che ricordano quelli dell'URSS di molti anni fa. Siamo ovviamente contenti di aver contribuito alla rinascita della Russia. Anzi, posso dire che ne siamo fieri. E d'altronde lo Stato ha una grossa quota di azioni nella nostra società. Oggi Gazprom può vantarsi di essere di gran lunga la più grande società della Russia, con un fatturato di svariati miliardi di rubli e quasi 600.000 dipendenti. In tutto il mondo, nel settore dell'energia, abbiamo pochissimi rivali. Le nostre riserve di gas metano sono stimate in più di 30 trilioni di metri cubi. Sono risorse enormi a cui corrispondono obiettivi ambiziosi, anche perché le tecnologie moderne di cui disponiamo ci consentono di evitare gli sprechi. Per il momento forniamo gas a più di 30 paesi e la lista si allunga di anno in anno. Stiamo lavorando inoltre per avviare attività di estrazione anche in paesi terzi, dalla Libia all'Uzbekistan. E ovviamente ci occupiamo oltre che di gas, di petrolio e di elettricità. Nel 2008 la Gazprom ha festeggiato il suo 10° compleanno come società per azioni. Prima era un'industria di Stato alle dipendenze dirette del Ministero dell'Energia e si occupava solo della produzione e distribuzione di gas alla popolazione russa. All'epoca, quindi, Gazprom non faceva business. 35 anni fa, da queste parti, non c'era anima viva. Solo renne, volpi bianche e qualche altro animale selvatico. Tutto quello che è stato costruito, tutto quello che vedete, è frutto del nostro lavoro, della fatica e del sudore degli uomini Gazprom. Venire qua giù in Siberia è stata una scelta coraggiosa, ve lo assicuro, ma ne è valsa la pena. E oggi siamo qui a goderci i frutti del nostro investimento. Fino al 2006 gestivamo tutto noi come società. Non solo acqua, luce, gas, ma anche trasporti, scuola, salute, cultura. Poi abbiamo deciso di esternalizzare i servizi, come si dice in gergo, e li abbiamo affidati a società che dipendono formalmente dall'amministrazione comunale, ma che sono da noi sovvenzionate. Gazprom è una società che garantisce ottime prospettive. Il lavoro è assicurato, tanto per cominciare, e si può fare anche una buona carriera. Inoltre ci sono tutta una serie di servizi e di benefit sociali che altrove in Russia nessun altro ti darebbe. La cassa mutua, le colonie di vacanze, non è male. Secondo me non c'è paragone con altri lavori. Con Gazprom hai un ottimo stipendio, una buona qualità di vita e puoi fare dei progetti. Gazprom fa mangiare tutta la Russia e devo ammettere che anch'io mi sento protetto e non ho paura del futuro. È vero, c'è un decreto governativo che autorizza la trasformazione di Novi Urengoi in una città chiusa, ma per il momento la chiusura riguarda solo i cittadini stranieri. E comunque le ragioni di un provvedimento del genere mi sembrano evidenti. Questa è l'ultima città del nord prepolare. Da qui fino all'oceano Artico non c'è nient'altro ed è quindi un confine naturale da difendere. Poi ci sono i giacimenti di gas e di petrolio che è giusto proteggere con i più moderni sistemi di sicurezza. Sapete anche voi che il terrorismo internazionale è una minaccia seria. Il gas è un'enorme risorsa economica, ma anche un'arma di ricatto potentissima nei confronti dell'Europa che di quel gas ha un bisogno estremo. In realtà Gazprom è una società per azioni controllata dallo Stato, dunque l'influenza politica ha un peso enorme. Per capire quali sono i centri di potere che oggi governano la Russia, bisogna andare a San Pietroburgo. È qui infatti che ha inizio la storia di Vladimir Putin. Putin ha reclutato la maggior parte dei suoi collaboratori nelle file del KGB. Sono loro ad occupare oggi le più alte cariche dello Stato e dell'amministrazione pubblica. Molti di loro, inoltre, vengono da San Pietroburgo. Ma non bisogna pensare a un clan compatto che agisce di concerto. Ci sono diversi sottoclan, a volte in lotta fra di loro, ma sempre uniti quando c'è da sostenere Putin. Lo stile di Putin si è formato alla scuola del KGB, quando lavorava nella stazione di Dresda, in Germania. Non è un caso se si reputa un grande comunicatore, perché nei nostri servizi segreti era questo che si insegnava, l'arte della disinformazia, della disinformazione. Quanto alla democrazia e al rispetto dei diritti civili, per Putin sono solo un orpello di cui fregiarsi per farsi bello agli occhi dell'Occidente. In realtà il presidente Putin non ha mai amato la parola democrazia, o almeno non da sola. Ha sempre preferito parlare di democrazia guidata. Un concetto che a Mosca va molto di moda, anche se in Occidente suona terribilmente retorico. Democrazia guidata è un concetto che conosco bene e trovo che si attagli perfettamente alla situazione della Russia di oggi. Cerco di spiegarmi. Negli anni 90, durante la presidenza Yeltsin, quando è nata la nostra democrazia, ad approfittarne non fu il popolo, ma pochi furbi. Succedeva, ad esempio, e non era raro, che elementi della criminalità organizzata riuscissero a farsi eleggere come sindaci o addirittura come governatori. C'era, cioè, la democrazia, ma solo a livello formale. È giusto invece che il potere centrale possa controllare i processi democratici, che li guidi e, se serve, che li corregga. Questa è la democrazia guidata. In nessun paese d'Europa c'è la democrazia ideale. Ed è normale, inevitabile che si facciano delle critiche. Vale per tutti i presidenti e per tutti i governi. Qui in Russia il problema è che ci siamo illusi all'inizio degli anni 90 di poter costruire la democrazia in tempi rapidi e in modo indolore. Purtroppo non è così e ce ne siamo accorti a nostre spese, ma siamo sulla strada giusta. La nostra è una sorta di democrazia plebiscitaria. Ci sono, cioè, tutti gli istituti della democrazia, ma c'è anche un pizzico di autoritarismo. Non va però dimenticato che Putin ha ricevuto un ampio mandato, politico e soprattutto morale. Il popolo russo ha creduto in quello che faceva. L'opposizione c'è, ma il potere fa di tutto per negarci la visibilità. In questi ultimi anni siamo scesi in piazza svariate volte, a Mosca come a San Pietroburgo, e tutte le volte la polizia ha caricato i nostri manifestanti in modo brutale, ma le televisioni hanno preferito tacere oppure minimizzare le violenze. Hanno vietato la nostra manifestazione perché, secondo le autorità, potrebbe turbare l'ordine pubblico, ma è una giustificazione che non sta in piedi. Siamo sempre scesi in piazza a mani nude, armati solo dei nostri slogan, e loro ci hanno attaccato senza motivo, perché hanno paura delle nostre idee. Anche ieri a San Pietroburgo hanno disperso chi marciava con noi, perché Putin gliel'ha ordinato. È uno zar e si comporta da zar. È proprio con questo concetto della democrazia guidata che Putin è riuscito a mettere all'angolo i suoi oppositori. Il suo vero capolavoro politico è stato però quello di neutralizzare gli oligarchi. Gli oligarchi sono spregiudicati uomini d'affari che negli anni 90, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, hanno accumulato ingenti patrimoni con le privatizzazioni. Petrolio, metalli, i loro affari migliori, spesso criticati per gestione e metodi al limite della legalità, riescono ugualmente ad avere una grande influenza e qualche volta anche il diretto controllo dell'apparato statale. Putin fece capire agli oligarchi che non avevano nulla da temere, che potevano cioè tenersi tutte le loro ricchezze, anche se il popolo russo riteneva che fossero state accumulate con metodi illeciti. In cambio però gli oligarchi avrebbero dovuto cessare ogni attività di lobbying e ogni interferenza nella politica e negli affari di Stato. Alcuni oligarchi accettarono, altri rifiutarono. Questi oligarchi determinavano al 100% la politica ai tempi di Yeltsin. Non era più il presidente a prendere le decisioni, né il Parlamento a fare le leggi. C'era un gruppo ristretto di uomini d'affari che si era arrogato ogni potere. E badate bene, in nome del proprio interesse personale, non certo di quello collettivo. Per porre fine a questa situazione c'era bisogno del pugno di ferro. Non c'era altra via. Gli oligarchi non avrebbero mai ceduto il loro potere di spontanea volontà. Putin ha utilizzato perciò dei sistemi non certo democratici, dei metodi autoritari, ma per salvare il paese l'ha fatto in nome del popolo, che glielo chiedeva. Sono convinto che questi problemi debbano essere risolti non solo dallo Stato, ma da tutta la società civile, nell'ambito delle rispettive competenze, incluso il mondo degli affari. Vi auguro buona fortuna. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Il mondo degli affari russo si è prostrato ai piedi di Putin, anche se era perfettamente chiaro che Putin se la sarebbe presa con tutti. Lui infatti aveva dichiarato guerra a chiunque fosse indipendente, politici, giornalisti o uomini d'affari. La progressione è evidente. Prima si occupa dei politici indipendenti, poi passa ai giornalisti e ai media liberi. E dopo essersi occupato di tutto questo, se la prende con il capitale indipendente. Questo perché non è possibile creare un asse di potere verticale assoggettando solo i politici e i media senza controllare il denaro. Dopo la stretta di Putin, tutti quelli che decidono di non piegarsi alla sua politica sono fuggiti all'estero. Continuano a gestire i loro enormi capitali anche se in Russia vengono considerati criminali da arrestare alla prima occasione. L'ultimo oligarca che ha cercato di resistere allo strapotere di Putin è Mikhail Chodorkovskij, che nel 2003 è stato arrestato per frode fiscale e successivamente condannato a 17 anni di carcere. La stampa internazionale unanime ha considerato il suo processo come una sanzione politica. Nel 2013 viene liberato grazie a un'amnistia e fugge in Germania. Quella contro Khodorkovskij è stata una battaglia politica. Certo, come tutti gli altri oligarchi, anche lui aveva i suoi scheletri nell'armadio in fatto di evasione fiscale. Ma la sua vera colpa era di voler influenzare la Duma, il Parlamento. E questo Putin non poteva tollerarlo. Gli oligarchi dei tempi di Yeltsin erano tutti degli individualisti sfrenati. Putin li ha sostituiti con oligarchi più ragionevoli, disposti cioè a condividere la sua strategia. Ma non è che abbia fatto fuori la classe degli oligarchi. Quella è solo propaganda. Lui stesso è diventato un oligarca. Putin ha lasciato in pace gli oligarchi buoni. Quelli che hanno accettato le sue proposte e ovviamente ne ha imposti degli altri di cui si fidava e a cui ha affidato il controllo di alcune grandi società nei settori chiave dell'economia. Cos'altro doveva fare? Eliminare tutti gli oligarchi e distribuire le loro ricchezze al popolo? Ma questa è demagogia. Putin dunque ha vinto. Oggi è uno dei leader politici più potenti e spregiudicati del mondo. Un vero e proprio ultimo zar. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it. We'll be right back.